Letture di Radio 24. È giusto che una ballerina sia costretta a mettersi a dieta per arrivare a pesare 43 kg? 5 anni fa una ballerina della Scala aveva denunciato un sistema fatto di diete assurde e minacce ed era stata licenziata per giusta causa. Ora la Cassazione le ha dato ragione e potrà tornare a ballare. Qualche giorno fa ha postato sulla sua pagina Facebook, Mary Garrett, nome d'arte, una foto nella quale indossa uno splendido costume color smeraldo nella coreografia di Balanchine, Jewels, con il commento You can fly. Quasi un presentimento di quello che sarebbe successo poche ore dopo. La Cassazione ha deciso che Maria Francesca Garritano, 37 anni, può tornare a danzare alla Scala, da cui era stata allontanata dopo le denunce sui disturbi alimentari tra le giovanissime. Ricorso del teatro respinto, licenziamento illegittimo. E i giornali di tutto il mondo, a iniziare dal New York Times, a raccontare il caso. Lei spera davvero di tornare sul palcoscenico? Mi aspettavo il reintegro già nel 2014, quando era arrivata la prima sentenza. Il caso Garritano era esploso nel dicembre 2011. La danzatrice aveva rilasciato un'intervista al periodico inglese The Observer, in cui lanciava accuse senza risparmiare il suo teatro. Una ballerina su 5 è anoressica, parlando di ragazzine portate in ospedale per essere alimentate artificialmente, colleghe afflitte da disordini alimentari, addirittura 7 su 10 che non hanno più le mestruazioni per via delle diete punitive. Situazioni che aveva raccontato nel libro La verità, vi prego, sulla danza, dove le critiche sulla Scala di una ventina di anni fa, quando lei era una giovane allieva, erano più circostanziate. L'istruttore la chiamava mozzarella e la costringeva ad andare avanti a mele e yogurt e a scendere a 43 kg. Nel corpo di ballo la solidarietà non è stata unanime. Molte colleghe hanno sostenuto che parlare di anoressia sia esagerato. Qualcuno ha sospettato che il polverone fosse stato sollevato dalla Garritano per fini personali. La Scala, dove ballava da quando aveva 18 anni, le ha dato il ben servito per l'impatto di oggettiva gravità delle accuse sull'immagine dell'istituzione. I suoi legali si sono opposti. La Corte d'Appello le ha dato ragione una prima volta. Il teatro ha fatto a sua volta ricorso. Ora la sentenza della Cassazione mette la parola fine. Che cosa succederà ora? Deciderà il Consiglio di Amministrazione, dice Simone Pietro Emiliani, uno dei suoi avvocati. Certo è che in questi anni l'attenzione ai problemi fisici e patologici delle giovani danzatrici è cresciuto, come confermano i responsabili dell'Accademia. Le allieve sono seguite dal punto di vista medico e psicologico da specialisti e dietologi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Paola Zonca «Dovevo pesare 43 kg. Le accuse alla Scala fanno il giro del mondo». Da venerdì di Repubblica del 29 aprile. Sono dappertutto. Arrivisti, truffatori, ladri, corrotti. L'Italia sembra perduta. Eppure un manipolo di eroi resiste. Se non vuoi cedere al lato oscuro della forza, ascolta. Si può fare. L'unico inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini, il sabato alle 7:30 e la domenica alle 8:30 su Radio 24. Letture di Radio 24. Dall'accordo siglato tra Fiat Chrysler e Google arriveranno entro la fine dell'anno un centinaio di prototipi della prima auto che si guiderà da sola. Era il mio sogno impossibile, commenta Andrea Bocelli in un testo raccolto da Marinella Venegoni per La Stampa. Sono abituato a cantare fuori dal coro e ho sempre pensato che il mondo va sempre avanti e sempre in meglio. L'uomo, ingrato, finge di non accorgersene. Quelli che hanno la mia età si dovrebbero ricordare che i loro padri sono stati coinvolti in una guerra mondiale, i loro nonni in due. E si dovrebbero ricordare anche che d'inverno andavano a letto con il freddo, perché non ci si poteva riscaldare. Il mondo va avanti, e la macchina che si guida da sola in breve sarà molto più sicura di quella guidata dall'uomo. Queste auto non avranno bevuto, Non si saranno drogate, non passeranno con il rosso, rispetteranno le strisce. L'uomo deve essere sereno, perché colui che ha fatto il mondo lo ha fatto bene e ha programmato che esso vada sempre meglio. Lo dico perché credo in colui che ha fatto il mondo, come recita il titolo del libro di Antonino Zichichi che ho divorato. Siccome l'uomo è una sua creatura, nonostante i pessimi esemplari che si manifestano per farcelo dimenticare e nonostante voi giornalisti facciate di tutto per far sapere soprattutto le cose brutte e non quelle belle che accadono, il mondo va sempre verso il meglio. E io che sono fortunato dal punto di vista economico, sarò fra quelli che compreranno per primi quest'auto che va da sola. Non vedo l'ora di digitare l'indirizzo di dove vorrò essere portato. Se acquisteremo in tanti quest'auto, si abbasserà il prezzo e sarà dunque a portata di più gente. Ricordatevi che un tempo l'aria condizionata e i vetri elettrici si trovavano solo sulle Rolls Royce. Oggi ne sono dotate anche le utilitarie. Bisogna ragionare in modo diverso. Non dimenticatelo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Andrea Bocelli «Era il mio sogno impossibile e adesso diventerà realtà» dalla Stampa del 3 maggio. Ha suscitato le reazioni più disparate il video promozionale di Catterbox, un prototipo di collare che permetterà ai gatti di parlare. Lo produce l'azienda Temptation, che si occupa di accessori per felini domestici. L'oggetto, che ricorda molto il collare mostrato nel film Up della Pixar e utilizzato dal cane parlante Doug, sarebbe stampato in 3D e riuscirebbe a registrare in diretta i miagolii, analizzandoli in tempo reale. Dopo averli adeguatamente interpretati e tradotti in linguaggio umano, Catterbox li comunicherebbe ai padroni tramite un altoparlante posto all'interno del collare e collegato via Bluetooth allo smartphone, grazie a cui sarebbe possibile anche personalizzare una parte delle opzioni, fra cui il tipo di voce. E quale sarebbe la tecnologia alla base di Catterbox? Secondo gli ideatori, il sistema sarebbe in grado di riconoscere fino a una ventina di diversi segnali vocali dei gatti che corrisponderebbero ad altrettanti messaggi lanciati ai propri padroni. Si va dal semplice ciao fino al questo cibo mi piace o al preparami la colazione o addirittura a qualche insulto di protesta. La storia comincia a somigliare a una bufala fino a quando se ne parla come di un collare prodigioso, capace non solo di dare voce ai gatti, ma soprattutto di creare una corrispondenza precisa con il linguaggio e la comunicazione umana. Un'idea stimolata dalla mission dell'azienda, capace di rispondere a un bisogno primordiale di dialogo tra uomo e animali domestici, o peggio, un oggetto che riesce a farci conoscere il pensiero dei nostri gatti. Quello che proprio non regge nel video, in particolare, è che studi scientifici mostrano che i gatti miagolano solo per comunicare con l'uomo, così come la riduzione dei suoni prodotti da un felino ha un insieme molto ridotto di significati. Al contrario, invece, il repertorio vocale dei felini è enorme e proprio per questo ci sono ricerche scientifiche volte a studiare la complessità della comunicazione in condizioni particolari, come ad esempio durante un momento di paura, senza tenere conto che la comunicazione animale e dei gatti in particolare comprende anche la parte non sonora del linguaggio del corpo tramite la posizione e il movimento di coda, occhi, collo e testa. Poi, tra l'altro, non è chiaro come il dispositivo sarebbe in grado di adattarsi alle differenze tra i miagolii delle diverse razze o anche da esemplare a esemplare, una questione tecnica molto complessa che la stessa azienda ha riconosciuto, ma per la quale ha fornito solo risposte generiche. Va comunque precisato che la stessa Temptations Lab ne parla come un oggetto allo stadio di prototipo, con elementi piuttosto vaghi sia sul funzionamento sia sul livello di affidabilità. Quasi certamente, insomma, si tratta più di un lancio commerciale e di un tentativo originale di farsi pubblicità, più che della messa in vendita di un oggetto. Forse più che una bufala, la potremmo definire una manovra di marketing un po' azzardata. In ogni caso, non è noto se e quando un simile dispositivo verrà messo in commercio, né quale potrebbe essere il suo prezzo di vendita al pubblico. Con tutta probabilità, ammesso e non concesso che il Catterbox arrivi davvero sugli scaffali, sarà un gadget forse divertente, che parlerà con voce umana quando stimolato dal miagolio di un gatto, senza troppe pretese di corrispondenza a livello di significato. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Gianluca Dotti, Catterbox. Esiste davvero un collare che permette ai gatti di parlare? Pubblicato il 5 maggio sulla rivista online Wired. La schedina del Toto Calcio compie 70 anni e anche se da tempo è stata messa in disparte a favore di Superenalotto, Gratta e Vinci e Scommesse, continua ad appassionare un piccolo numero di irriducibili. L'idea della schedina venne nel 1946 a un giornalista, Massimo Della Pergola. Scommettere sui risultati delle partite di calcio. 12 all'inizio, 13 dal 1951. Un numero poi diventato un modo di dire, proverbiale come quell'oggetto rettangolare e nazional popolare come pochi. Il 70° compleanno dell'1x2 sarà festeggiato con la nascita di un sito che ne percorre attraverso documenti, immagini e cimeli l'epopea anche attraverso le vite degli uomini che spinsero l'Italia a scommettere sul pallone. Nei primi 2 anni di vita del concorso sono state stampate e lanciate più di 2,5 miliardi di schede. Il momento più alto del Totocalcio venne nei primi anni 90. Il massimo montepremi raggiunto fu di 34,4 miliardi di lire, sparsi però tra i 1.472 tredicisti della domenica, che finirono per vincere appena 12 milioni di lire. Un mese prima, invece, la vincita record. In una ricevitoria di Crema, un sistema fruttò ai suoi 3 scommettitori la bellezza di 5 miliardi di lire. Da allora la schedina ha iniziato la sua rapida discesa, affiancato da altre fonti di fortuna, cannibalizzato dall'avvento delle scommesse. Lasciato anche dal CONI nel 2002, il Totocalcio è diventato nel tempo un prodotto di nicchia, appannaggio solo di ostinati fedelissimi. I numeri degli ultimi anni sono impietosi. Nel 2010 la raccolta totale si attestava sui 98 milioni di euro. Appena 5 anni dopo, il dato era già crollato a 28. Nei primi 4 mesi del 2016, il Totocalcio, oggi basato su 14 pronostici e una serie di possibili vincite intermedie, si è fermato a 10 milioni. L'ultimo concorso, quello del 1° maggio, ha registrato numeri desolanti. 36.000 schedine giocate, un montepremi da 150.000 euro, nessun 14, 2 13 da 18.000 euro, nemmeno malaccio in fondo, 32 dodicisti. Oggi la schedina è roba da museo. A proposito, ce n'è uno a Peschiera Borromeo, vicino a Milano, si chiama MAKE, Memoria, Evoluzione, Identità Condivisa. È visitabile su prenotazione. Così giocavano gli italiani. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Cosimo Cito, quei 30.000 ancora innamorati del Totocalcio, dalla Repubblica del 5 maggio.